Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, ho 44 anni e ho iniziato a lavorare quando ne avevo 14, apprendendo un lavoro antico e affascinante qual è quello dell'orologiaio. Un lavoro dunque tradizionalmente artigiano che mi ha permesso di costruirmi un futuro e una famiglia vivendo dignitosamente. In Italia il lavoro umile e artigianale ha sempre dato opportunità di realizzazione ai giovani, anche a quelli un po' allo sbando, anche a quelli che, trovandosi alla fine delle scuole medie a dover scegliere un futuro, non sapevano quali pesci pigliare. E allora si andava in bottega a imparare lavori quali il meccanico, l'imbianchino, l'elettricista, eccetera, eccetera. Lavori umili, sì, ma pieni di opportunità. La globalizzazione, la ricchezza, le carriere facili e l'idea che si possa avere un futuro solo all'interno di una grande azienda hanno cancellato il lavoro artigiano. I piccoli artigiani e i negozianti fornivano lavoro e opportunità di ogni genere a chi voleva lavorare, ma stanno scomparendo, anche perché le stesse grandi imprese uccidono il mercato dei più piccoli artigiani, accentrando tutto su di sé. Fa sorridere vedere grandi catene di distribuzione che si appropriano dell'immagine di antichi lavori e tradizioni, come se i loro metodi di lavoro fossero gli stessi di un tempo. Ma non è così. Le grandi aziende seguono le loro esigenze di mercato, ma forse sarebbe ora di rilanciare lavori che hanno fatto la vera differenza fra un prodotto cinese e quel made in Italy artigianale di cui siamo sempre stati grandi maestri. Ridare vigore e opportunità a questo mondo sommerso darebbe speranza ai giovani per il loro futuro. Mario. Caro Mario, il suo appello per la difesa del lavoro artigiano è certamente condivisibile, ma non porrei il problema sul piano del conflitto tra le diverse componenti della produzione. Le grandi imprese hanno almeno potenzialmente degli importanti meriti. Possono investire in ricerca e sviluppo, possono garantire migliori controlli di qualità, possono abbassare i costi di produzione, garantendo quindi notevoli vantaggi ai consumatori. Detto questo, il lavoro artigiano ha non solo grande dignità, ma anche un ruolo economico e un valore sociale sicuramente rilevante. Una società dinamica deve creare le condizioni perché le imprese possano crescere, possano valorizzare al massimo le competenze e la professionalità. E il lavoro artigianale deve mantenere un ruolo fondamentale perché è l'espressione più diretta e immediata proprio delle competenze e della professionalità. Ma in fondo ogni artigiano deve anche poter avere la speranza di ingrandire il proprio laboratorio, di creare un'impresa, di diventare imprenditore. Le contrapposizioni non sono mai utili. Se si ritrova una dinamica di crescita, non solo ci sarà posto per tutti, ma tutti, pur con compiti e ruoli diversi, potranno e dovranno contribuire al benessere collettivo. Quella appena approvata è una manovra finanziaria correttiva, cioè chiamata a rettificare una manovra passata. Ma anziché rettificare, si sarebbe dovuto riformare il sistema fiscale, previdenziale e del lavoro. Ci portiamo dietro le decisioni e le normative maturate e approvate nel lontano 70. Se non rinnoviamo la dirigenza politica e immettiamo novità nei sistemi, credo sia ormai inutile anche soltanto parlarne. Una delle necessità era quella di inserire un'imposta patrimoniale per equità. Infatti molti hanno acquistato delle abitazioni prima dell'introduzione dell'euro, anche come prima casa, abitazioni il cui valore oggi è almeno triplicato e che sono state acquistate con mutui che oggi pesano sul nostro sistema finanziario. C'è qualcosa che non va, Enzo? Da molti giorni ormai l'argomento dello stipendio dei parlamentari sta tenendo banco su tutti i media. Fino ad ora non ho però sentito dare molto peso a una riflessione che a me pare ovvia. La congruità dello stipendio non si misura in valore assoluto, ma nel rapporto costo-beneficio. Facciamo due esempi limite, ma di grande attualità. I calciatori guadagnano tanto, ma i tifosi farebbero collette milionarie pur di poter seguire il loro campione più amato. Giusto o sbagliato, morale o immorale che sia, i tifosi, quelli che finanziano il sistema, sono contenti così. I grandi dirigenti guadagnano milioni di euro, ma nel corso degli anni hanno fatto guadagnare miliardi alle loro aziende. Altri, al posto loro, sarebbero stati altrettanto bravi? Forse no. E data la posta in gioco, gli azionisti pagano ben volentieri questi lauti stipendi. In pratica, in un sano rapporto di lavoro, deve esistere un committente e un prestatore d'opera. Il prezzo lo dovrebbero fare la domanda e l'offerta. Il problema dei parlamentari è che questo semplice meccanismo è radicalmente distorto. In questo caso, l'offerta viene imposta sia in termini di numero, sia in termini di prezzo, mentre la domanda sono anni che non viene soddisfatta. Tutto qui. Allora, che senso ha paragonare lo stipendio di un parlamentare con quello di un dirigente d'azienda o di un quadro? Il paragone non solo è difficile, non ha proprio senso. Un dirigente viene scelto, il suo stipendio viene negoziato in via di assunzione, le sue performance vengono sistematicamente messe in discussione. Se lavora male, è probabile che venga rimosso. I parlamentari non sono scelti, sono imposti dalle liste. Il loro numero è determinato dalla Costituzione, che solo loro possono modificare. Lo stipendio è autoregolato. Il committente, ovvero il cittadino, spesso non sa nemmeno chi siano o cosa abbiano fatto nella vita per ambire a tale carica. Io faccio l'imprenditore. Se la mia azienda funzionasse come il Parlamento, vale a dire che se i miei dipendenti autodeterminassero quanto personale la mia azienda dovrebbe assumere e quanto lo dovrebbe pagare, avremmo chiuso già da un pezzo. Gli italiani sono evidentemente insoddisfatti delle performance dei nostri parlamentari e giustamente pretendono che guadagnino poco. Molto probabilmente molti voterebbero a favore non solo di una riduzione di stipendio dei parlamentari, ma anche per una drastica riduzione del numero dei parlamentari. Matteo. Gentile direttore, dalla recente manovra finanziaria ci si aspettava un adeguato taglio dei costi della politica. Da un punto di vista contabile avrebbe permesso il risparmio di qualche decina di milioni di euro, ma il forte valore simbolico avrebbe contribuito a ridare dignità a tutta la classe politica. Sarebbe stato il classico «rimbocchiamoci le maniche, ma seriamente». Per qualche giorno abbiamo assistito a uno stucchevole dibattito fra i nostri politici su chi tagliava di più. Alla fine, alla presentazione della manovra, credo che si possa affermare che la montagna per i costi della politica non abbia neanche partorito il classico topolino. I tagli alle indennità dei politici hanno assunto valori ridicoli. Il 5% di Calderoli in confronto era una mazzata. Il taglio, o meglio l'abolizione delle famigerate province, prima è diventato mini, poi, stando alle ultime dichiarazioni, nullo. Alla fine, come era nelle previsioni di molti, la politica non si taglierà un bel niente. Comunque, siccome la speranza è l'ultima a morire, il mio sasso lo voglio lanciare lo stesso. Alcuni anni fa si discuteva della riduzione del numero dei parlamentari. A parole, più o meno tutti, dicevano che a proporzioni invariate il numero dei deputati e senatori poteva tranquillamente arrivare a 600 o 500. Un bel taglio di poltrone. Ma che fine ha fatto? L'abolizione delle 110 province di botto eliminerebbe ben 5.000 posti fra presidenti, assessori e consiglieri. Inoltre alcune migliaia di dipendenti attualmente addetti a compiti di segreteria, del presidente, del vice, degli assessori, del gruppo consigliare, degli uffici stampa e via discorrendo, sarebbero recuperati da altre mansioni forse più produttive. Qualcuno mi chiederà: le competenze della provincia che fine fanno? A mio modesto avviso si possono tranquillamente trasferire, insieme al personale, alle regioni di appartenenza, le quali, per esempio, le potrebbero trasformare in aziende, con a capo un direttore generale di nomina regionale, supportato da un consiglio di indirizzo formato dai sindaci dell'ex provincia, che si riunirebbe 3-4 volte all'anno per decidere i progetti straordinari che il direttore dovrebbe prioritariamente portare avanti. Credo che con le soluzioni prospettate avremo sicuramente un bel taglio dei costi della politica, a cui si aggiunge il forte valore simbolico. Ma forse si tagliano troppe poltrone. Per questo, da un paio d'anni la politica ha smesso di parlarne. Stefano, provincia di Bari. Sono un militare con un reddito di poco meno di 30.000 euro all'anno. Questa manovra mi porterà via, tra una cosa e l'altra, circa 1.000 euro netti all'anno, tanto quanto un politico che guadagna molto più di me. Non porta via nulla ai più ricchi, purché non siano pubblici dipendenti, e non taglia in modo energico i costi della politica, eccetera. Ma visto che si parla di Europa, che avrebbe chiesto questi interventi ai quali noi ci stiamo adeguando, come mai non tassiamo le rendite finanziarie al 20%, come fa la maggior parte dei paesi europei, adeguandoci a loro? Antonio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.